extra preso nel cuore ma la luna mi ingalza nel giorno lasciami a picchi coio che non mi muovo paro e sgarri nel burico come io Chari, anti takane pati, nengata me janji, kue mungkari janji, pan masih kau.